Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Colleghi di SEL, per favore. Allora, chi è che deve votare? Magorno, Ferranti, Mazziotti. Bene, allora, hanno votato tutti. Bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 316, contrari 137, la Camera approva. Sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dalla voce del Presidente della Camera Boldrini che Montecitorio, tutta la Camera, ha approvato definitivamente il disegno di legge sulla riforma della scuola. Adesso però passa al Senato e lì la Ministra Boschi ha promesso alla minoranza Dem che si è ritirata, non ha votato. Detto lì potremo avere delle aperture, vedremo se ci saranno altre discussioni. Quindi questo è il primo passaggio, intanto la Camera l'ha votato, avete sentito sempre, diciamo, piuttosto animatamente. Parleremo poi stasera qui a Effetto Notte di questo arresto di un cittadino marocchino che sarebbe accusato di aver partecipato alla strage del Museo del Bardo in Tunisia, per il momento è un presunto terrorista. Però quello che ci si chiede a questo punto, dopo lo scoppio della polemica politica soprattutto da parte della Lega con attacchi a Alfano e al Presidente del Consiglio Renzi, è effettivamente, visto che lui pare sia arrivato in Italia con un barcone, c'è il rischio allora davvero che con, oltre a tanti disperati sui barconi, arrivino anche terroristi islamici? Ne parleremo con un esperto. Voi potete scrivere naturalmente le vostre opinioni, le vostre riflessioni su questo argomento in particolare attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte, che ve lo dico a fare, sempre lì per voi, oppure attraverso gli sms al 349-238-6666, se veramente pensate, insomma, che questo possa essere un rischio effettivo. Ci occuperemo poi di un fenomeno sociale che probabilmente è stato prodotto dalla crisi e risulta dai dati Istat, che è quello che in 2,5 milioni di famiglie in Italia lavorano esclusivamente fuori casa, intendo, sono occupate soltanto le donne. Per 2,5 milioni di famiglie sono occupate e lavorano esclusivamente le donne. Ne parleremo, come ci occuperemo anche di Cannes, visto che oggi è stato il giorno di Sorrentino. Poi dirò anche cosa penso di uno di questi film italiani che è stato presentato, che possa importare, ma insomma un parere un po', diciamo, anticonformista in questo. E poi ci dobbiamo occupare anche di calcio, perché vedo già che la partita è entrata nel vivo, la finale di Coppa Italia, quindi mi sbrigo a riassumervi i titoli più importanti. La strage del Bardo, arrestato in Italia un marocchino accusato di aver partecipato all'attentato nel museo di Tunisi, scoppia la polemica politica. Siria, l'ISIS occupa la città di Palmira, centinaia di civili in fuga, portati al sicuro centinaia di reperti archeologici. Scuola, la Camera vota sì alla riforma, ora la battaglia si sposta al Senato e le sigle sindacali annunciano uno sciopero nelle prime due giornate di scrutini. Pensione, il ministro Padoan annuncia per gli anni 2012-2013 rimborsi dal 40 al 10%. Crisi, ancora esuberi alla Whirlpool, secondo i sindacati il totale supera le 2.000 persone. Stati Uniti, quasi 6 miliardi di dollari di multa a 5 banche internazionali accusate di aver manipolato i cambi. Calcio scommesse, anche la Salernitana di Lotito sarebbe coinvolta nell'inchiesta per la Coppa Italia, sfida finale tra Lazio e Juventus, che già, insomma, hanno qualche risultato. Dario Ricci, vero? Sì, hai proprio ragione Roberta, inizio effervescente all'Olimpico perché siamo al 18° del primo tempo, appunto, e siamo già sull'1-1, Lazio in vantaggio dopo appena 4 minuti. C'è stata una punizione dalla destra di Ledesma, il colpo di testa di Radu a battere Storari, che questa sera difende la porta juventina al posto di Buffon. Juventus stordita, ma che poi ha reagito nel giro di pochi minuti, ha trovato il pareggio all'11°, azione molto simile, perché questa volta la punizione dalla destra è di Pirlo sul secondo palo, il colpo di testa di Evra, assist per Chiellini che di sinistro gira e sigla l'1-1 battendo Berisha. Quindi siamo al 18° di gioco, da pochi istanti ammonito il biancoceleste Parolo. Juventus 1-1 in questa finale di Coppa Italia. Grazie Dario Ricci, poi naturalmente ci aggiorneremo, visto che è già iniziata così in modo vivace la partita. Vediamo poi come procede. Intanto però procediamo con le altre di notizie. Partiamo dopo il calcio dall'arresto in Italia di uno dei presunti attentatori del Museo del Bardo di Tunisi. Vi dicevo che sarebbe arrivato in Italia da clandestino forse per ben due volte. Nell'attentato del 18 marzo scorso erano rimasti uccisi anche quattro italiani. Le autorità tunisine e quelle italiane si stanno coordinando per la sua estradizione, ma per la prima udienza bisognerà attendere venerdì. Per l'Italia era quasi uno sconosciuto, per Tunisi un pericoloso terrorista, uno dei pianificatori e attentatori della strage al Museo del Bardo. Twil Abdel Majid, marocchino di 22 anni, è stato arrestato nel milanese mentre tornava nell'appartamento dove vivono la madre e i due fratelli, tutti con permesso di soggiorno regolare. Lui invece in Italia non poteva stare. Arrivato il 17 febbraio su un barcone, ha ricevuto un foglio di via con l'obbligo di lasciare il paese entro 15 giorni. A quel punto sarebbe rientrato a Tunisi, dove un mese dopo, il 18 marzo, avrebbe preso parte all'attentato in cui morirono 24 persone, di cui 4 italiane. Poi il ritorno in Italia, non si sa come e in che modo. Verso metà aprile la madre va dai carabinieri di Trezzano sul Naviglio a denunciare lo smarrimento del passaporto del figlio, che viene così identificato col presunto attentatore ricercato a Tunisi. Partono le indagini fino all'arresto, davanti al civico 14 di via Pitagora a Gaggiano, ma i familiari lo difendono. Sembri qui, mai andato in Tunisia, leggiamo queste prima. Così dice la madre Fatima, mostrando la copia dei documenti di Abdel Majid. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E secondo il deputato del PD Emanuele Fiano, ex componente del COPASI, del Comitato di Controllo sui Servizi Segreti, il marocchino arrestato sarebbe già stato espulso dall'Italia nel 2012 e naturalmente quindi si torna a parlare dei clandestini che vengono espulsi ma su quali mancano poi i controlli. Direi che è un gran caos. La missione del procuratore di Agrigento Roberto Di Natale va dritta nei buchi neri di questa storia e nei meccanismi complessi dell'accoglienza dei migranti. Il marocchino accusato dell'attentato al Bardo aveva un foglio di intimidazione, un ordine cioè di lasciare il paese entro 15 giorni perché irregolare e senza richiesta di asilo politico, ma è impossibile, ammettono dalle frontiere meridionali, verificare se poi ciò effettivamente avvenga. Ma è l'eventuale ritorno in Italia del marocchino a mostrare ancor di più i punti deboli dei controlli, nonostante i ciclici allarmi sul rischio attentati. Quanto spesso, infatti, e con che tempi le impronte digitali dei migranti si confrontano con le banche dati? Il procuratore di Agrigento lascia parlare le evidenze. Tenuto conto che abbiamo migliaia e migliaia di sbarchi mensili, ovviamente probabilmente non avviene. L'Italia anche come attività di polizia giudiziaria ne ha fin sopra i capelli e ritengo che sia estremamente difficile fare dei controlli seri. E l'isolamento dell'Italia fino ad ora nella gestione degli sbarchi visto dal canale di Sicilia rende l'intera Europa più vulnerabile. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Come vi dicevo, la questione si è velocemente trasformata in uno scontro politico. Mentre Renzi e Alfano si sono complimentati con le forze dell'ordine per l'arresto, la Lega e Salvini continuano a chiedere le dimissioni del ministro Alfano, che risponde e dice che l'Italia non merita Salvini. La Lega ha poi presentato un esposto ai carabinieri contro il governo per non garantire la sicurezza dei cittadini italiani. Su questo ci soffermeremo dopo. Se volete, vi dicevo, i vostri messaggi, le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sempre lì, lo sapete, la trovate in qualsiasi momento, oppure gli sms 349-238-6666, questo è il numero. I terroristi islamici dell'ISIS intanto occupano la città di Palmira in Siria. La televisione siriana ha confermato questa sera con una scritta in sovrimpressione che i membri dell'ISIS sono penetrati a Palmira. È in corso l'evacuazione dei civili, dicono ancora. Palmira tra l'altro era considerata una delle città più fortificate della Siria. Intanto centinaia di statue e reperti del sito archeologico della città sono stati trasferiti in altre località per timore di distruzione da parte dei jihadisti, come era avvenuto in Iraq, e di questo poi dovremo parlare tra poco, anche di questo. La riforma della scuola è stata approvata oggi alla Camera e ora passa al Senato. Tra proteste di piazza ed espulsioni dall'aula, il disegno di legge sulla scuola passa alla Camera, 316 sì, 137 no, un astenuto per la riforma che prevede maggiori poteri ai presidi, assunzione di 100.000 precari, inglese per tutti ed educazione fisica dalle elementari. Il premier Matteo Renzi è deciso ad andare avanti, soddisfatta il ministro dell'istruzione Stefania Giannini. Credo che l'aula della Camera abbia fatto fare al nostro paese, alla nostra scuola, un grande passo in avanti. Questo governo, lasciate dire, si è assunto con questo provvedimento quel dovere educativo che da tanto tempo era rimasto inespresso. Ma in aula scoppia la bagarre con il Movimento 5 Stelle. Il presidente Laura Boldrini scambia Angelo Tofalo con Alfonso Bonafede e li espelle tutti e due. Deputato Tofalo, la richiamo all'ordine. Deputato Bonafede, la espello dall'aula. La espello dall'aula. Deputato Tofalo, la espello dall'aula. Vota contro sé il Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia e anche la sinistra Dem non partecipa al voto. Il grillino Luigi Di Maio annuncia il Vietnam in Senato. Per quanto riguarda la fine della scuola non ci sarà il blocco degli scrutini, ma un possibile slittamento. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Montecitorio. E c'è da dire, una notizia che è arrivata in serata, che i sindacati hanno annunciato, come vogliamo, uno sciopero nella scuola, uno sciopero di un'ora nelle prime due giornate degli scrutini programmati nelle classi intermedie, dicono nel rispetto delle norme, delle famiglie e degli studenti. Lo hanno deciso unitariamente la PLCCGL, la CISL Scuola, la UIL Scuola, la Gilda e Snals nel corso dell'incontro che hanno avuto oggi pomeriggio. Le cinque sigle hanno anche concordato iniziative sul territorio come assemblee, sit-in, incontri con forze politiche e una fiaccolata della scuola il 5 giugno in diverse piazze d'Italia. Intanto l'Aula del Senato ha approvato praticamente all'unanimità il disegno di legge contro il cyberbullismo e ora il provvedimento passa all'esame della Camera. Per quanto riguarda le pensioni, il ministro Piercarlo Padoan alla Camera ha annunciato che per la restituzione degli adeguamenti, no, per gli anni 2012-2013 il decreto pensioni riconosce la rivalutazione del 40% per gli assegni tra 3 e 4 volte il minimo, del 20% per quelli tra 4 e 5 volte il minimo e del 10% per quelli tra 5 e 6 volte il minimo. Per il 2014-2015 invece sarà rimborsato il 20% di quanto previsto per il biennio precedente. Crisi occupazione, si aggrava l'avvertenza Whirlpool, secondo fonti sindacali salgono oltre 2.000 gli esuberi negli stabilimenti italiani. La decisione è stata comunicata dalla multinazionale americana nel vertice al Ministero dello Sviluppo Economico. Oggi sono stati annunciati 480 esuberi ulteriori che si aggiungono ai 1.430 già dichiarati nelle fabbriche e ai 150 già dichiarati negli uffici di ricerca e sviluppo. A riferire i nuovi numeri dell'avvertenza Whirlpool è il coordinatore nazionale della UILM Elettrodomestici Gianluca Ficco. 200 a Varese, 200 a Fabriano e 80 a Milano. Dopo quello degli impianti di produzione, il piano di ristrutturazione degli uffici amministrativi fa salire gli esuberi in Italia a quota 2.060 su 6.700 dipendenti. Esuberi motivati con la necessità di evitare la duplicazione di alcuni ruoli dopo l'acquisizione di Indesit, che ha raddoppiato le dimensioni del gruppo. I sindacati annunciano uno sciopero generale. È chiaro che si tratta di un impatto occupazionale terribilmente alto, terribilmente duro. Dovremo immaginare una grande mobilitazione capace di mandare un messaggio chiaro all'azienda. Non è possibile avere il consenso dei sindacati per piani che comportano ulteriori esuberi e ulteriori chiusure. Sindacati contrari anche per l'assenza di un piano industriale per lo stabilimento di Caserta, un motivo in più per partecipare allo sciopero indetto per venerdì. La multinazionale si è detta disponibile a non licenziare fino al 2018 a patto di poter beneficiare degli ammortizzatori sociali, ma con i lavoratori ad insorgere contro l'azienda è anche il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, che bolla il piano come inqualificabile. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cinque grandi banche, la notizia che arriva dagli Stati Uniti, sono state multate dalle autorità americane per complessivi 5 miliardi di dollari per aver manipolato il mercato dei cambi tra il 2007 e il 2013. Si tratta di UBS, Citicorp, JP Morgan, Barclays, Royal Bank e of Scotland. La multa più alta è stata comminata alla Barclays ed è di 2,4 miliardi di dollari. Per quanto riguarda il calcio scommesse, di cui abbiamo parlato diffusamente anche ieri, nell'inchiesta è coinvolta anche la Salernitana di Lotito. E poi per le frasi sessiste del presidente della Lega Dilettanti sul calcio femminile, presidente della FIGC Tavecchio, dopo lo slittamento della discussione dei dilettanti sulle possibili dimissioni di Belloli, ha fatto sapere in serata, dice Tavecchio, aspettiamo le necessarie decisioni, altrimenti saremo costretti a intervenire attraverso i provvedimenti previsti dalle norme per tutelare la Federcalcio e la stessa Lega Dilettanti. Vi ricordate la polemica? Abbiamo parlato molto anche qui a Effetto Notte, no? Dei finanziamenti del calcio femminile, basta soldi a queste quattro lesbiche. E poi per chiudere la finale di Coppa Italia con Juventus-Lazio, che per il momento viaggiano sul 1-1 prima di sentire la viabilità. Volevo guardare qualche vostro messaggio dalla pagina Facebook di Effetto Note, il 349-238-6666. Deris dice: se venissero in pullman, a proposito dei possibili clandestini sui barconi che poi sono terroristi, come nel caso del presunto terrorista arrestato oggi, e se venissero in pullman cambierebbe qualcosa? Poi ci sono cose molto più potenzialmente pericolose in entrata. Andrea da Bologna: terrorismo con immigrazione, il pericolo è talmente evidente che Matteo Renzi non ha potuto fare a meno di scriverlo su un quotidiano americano, ma solo dopo aver infamato Salvini, che lo dice da tempo. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. C'è un ascoltatore che scrive al 349-238-6666, uno dei due canali dove potete con cui potete interagire con Effetto Note, l'altro è la pagina Facebook del programma. Dice: sono un insegnante, da quando ho detto di essere d'accordo sulla riforma i miei colleghi parlano male di me nelle classi e mi trattano da paria. Viva la libertà di opinione. Naturalmente ci mancherebbe la libertà di opinione. Una delle prossime sere, se ritorniamo adesso quando fa il passaggio al Senato il disegno di legge, vorrei proprio sentire anche attraverso i messaggi, soprattutto gli insegnanti, cosa ne pensano. Adesso però ritorniamo sulle notizie principali. Se avete acceso la radio in questo momento e non avete sentito quali sono i titoli, ve li ricordo brevemente. È stato arrestato in provincia di Milano un marocchino di 22 anni per la strage del bardo a Tunisi, sarebbe arrivato in Italia su un barcone. E poi sì alla riforma della scuola, la battaglia si sposta ora al Senato, la sinistra del Partito Democratico non vota, ma la ministra Boschi assicura: affronteremo in Senato i punti più discussi. Calcio scommesse, Renzi è disgustato, spunta la Salernitana nell'inchiesta. L'ISIS nel centro di Palmira in Siria, vicino alle rovine archeologiche, molti civili in fuga dalla città, evacuato l'ospedale, c'è il rischio appunto anche per i reperti archeologici. Istat: più lavoro ma per i più anziani. Parleremo anche di questo più tardi. E poi Expo, polemica tra McDonald's e Petrini, il patron di Slow Food. McDonald's accusa Petrini di retorica terzomondista perché Petrini ha detto che è povero di contenuti e ci sono solo ostentazioni architettoniche all'Expo di Milano. Sorrentino a Cannes divide applausi ma anche dissenso, qualche fischio. Il regista disse: il mio film per esorcizzare le paure. E naturalmente poi ci collegheremo anche con Cannes per sentire un po' di Sorrentino e non solo dei film italiani in genere. Ora quindi sulla notizia principale di oggi ci soffermiamo: l'attentato al museo del Bardo, vi ricordate, è stato arrestato per quell'attentato nel milanese a Gaggiano Abdel Majid Touil, un marocchino di 22 anni, perché è ritenuto coinvolto nella strage al museo di Tunisi. Avrebbe cioè fatto parte del comando che al museo uccise 24 persone, tra cui 4 italiani. Era ricercato a livello internazionale dalle autorità tunisine e l'operazione è stata condotta in Italia dalla Digos e dai ROS dei Carabinieri. A metà aprile la mamma del ragazzo, questa è una mossa che ancora non si comprende fino in fondo, che fa la badante, la mamma del ragazzo che ha due figli maggiori, tutti regolari in Italia, ha denunciato lo smarrimento del passaporto del figlio e attraverso questa azione è stato permesso alla polizia di risalire alla famiglia e di arrestare il giovane ieri sera mentre camminava sulla provinciale a Gaggiano, a pochi passi dall'appartamento della madre. Ora è rinchiuso nel carcere di San Vittore in attesa di essere estradato. I familiari però oggi sono stati intervistati, hanno detto in quel giorno lui era in Italia, anzi non ha mai lasciato l'Italia. La polemica politica è scoppiata immediatamente quando si è saputo che Touil era arrivato in Italia con un barcone. Gli era stato poi, siccome era un clandestino, gli era stato dato un foglio di via, anche se queste notifiche vengono date in mano in piena libertà delle persone, dicono te ne devi andare via entro 15 giorni. Quindi insomma, come avete sentito prima anche procuratore, com'è difficile poi fare i controlli. Ne parliamo con Lorenzo Vidino, specialista di Islam e violenza politica e ricercatore dell'ISPI. Buonasera Vidino, dagli Stati Uniti tra l'altro. Quindi buongiorno. Sì, buonasera a voi. Ecco. Vidino, la paura in questi momenti e anche la polemica politica si fonda sul dubbio che spesso ha tormentato in parte l'opinione pubblica, in parte è diventato un cavallo di battaglia anche per le campagne elettorali. Insomma, comunque c'è questo dubbio che con i barconi, con i tanti disperati che arrivano, possano mischiarsi anche terroristi. Cioè, quanto è fondata questa possibilità? Chiaro, è difficile dire. Diciamo che finora si è sempre ritenuto che questa fosse un'ipotesi poco probabile, che in sostanza i terroristi, se volessero entrare in Italia, avrebbero dei modi più facili, nel senso che hanno il passaporto italiano, hanno permesso di soggiorno italiano o comunque hanno altri modi più sofisticati per entrare sul territorio nazionale, che quindi il sistema Barconi non è quello che loro utilizzerebbero. È vero che gruppi legati all'ISIS si arricchiscono sulle spalle dell'immigrazione clandestina, ma che da un punto di vista operativo non entrerebbero nel territorio nazionale in quel modo. È chiaro che se confermate, ripeto, secondo me su questa storia ci sono molte cose da chiarire, molti dettagli che vanno chiariti, sarebbe uno dei forse primi casi confermati di soggetto che entra con queste modalità, chiaramente rendendo la cosa preoccupante, dimostrando qualche falla nel sistema, e chiaramente capisco le implicazioni politiche. Quindi che cosa però sentiva prima, prima non l'ha sentito, un servizio in cui insomma procuratori delle varie procure anche del sud, della Sicilia, dove arrivano gli immigrati, dicono: siccome ci sono migliaia di sbarchi e l'hanno messo, è impossibile fare davvero controlli a tappeto. Quindi... Ah, assolutamente, i numeri sono enormi, se parliamo di un migliaio al giorno è assolutamente impossibile, poi ci vuole un livello di coordinazione con le forze di sicurezza di decine di altri paesi, è assolutamente impossibile. Esiste poi anche diciamo una tendenza, da un certo punto di vista comprensibile, delle nostre autorità a far passare certi soggetti. Sappiamo che la maggior parte di coloro che arrivano sulle nostre coste non vogliono rimanere in Italia, vogliono andare in Germania, in Svezia, in Olanda, in Inghilterra, quindi c'è una tendenza a un pochino chiudere un occhio, far passare, così si escono dal territorio nazionale, non fanno richiesta di asilo politico in Italia ma vanno direttamente all'estero. Ripeto, posizione pratica comprensibile visto quanto gli altri paesi europei ci abbiano in un certo senso lasciati da soli a gestire questa problematica. È chiaro che se però così succede, non si può controllare i pochi che entrano con intenzioni ben diverse, con intenzioni di violenza, di terrorismo. Quindi possiamo dire, Lorenzo Vidino, che pur con i controlli, pur con la volontà, pur con la capacità dell'intelligence, visto che per il momento è stato arrestato, anche se è presunto terrorista, questo 22enne marocchino, pur insomma con tutte queste capacità di spiegamento di forze, sarebbe un'illusione pensare di poter fermare tutti quelli che sono pericolosi, che quindi possono tranquillamente arrivare. La sicurezza assoluta è una chimera in qualsiasi società democratica, quindi è chiaro che esistono, in qualsiasi sistema esistono falle. È chiaro che ci vuole un miglioramento nel sistema non tanto di monitoraggio, perché in questo caso il sistema ha funzionato. Il momento in cui si è capito che questo soggetto era coinvolto in attività, presunte attività di tipo terroristico, abbiamo visto con la bravura delle nostre autorità intervenire a monitorare la casa della madre. Però nell'entrata nel territorio nazionale è chiaro che lì qualche falla c'è stata. Ripeto, però quando abbiamo più di 1000 soggetti che entrano clandestinamente al giorno è impossibile controllare tutto. Lorenzo Vidino, per chiudere, penso che appunto gli Stati Uniti ha un meeting tra poco, ma quanto sono interessati questi eventuali terroristi a compiere qualche attentato in Italia piuttosto invece che usarla come base per poi, come ha fatto questo marocchino, se è vero, usare come base per poi andare dire nel caso stati. Concreto questo non sappiamo il perché questo soggetto, ripeto, presunto terrorista sia tornato in Italia, abbia fatto anche una mossa abbastanza stupida dal punto di vista operativo, perché comunque di andare a casa, l'unico indirizzo, l'unico domicilio noto, quello della madre, non è una mossa geniale, diciamo, da un punto di vista operativo. Quindi il caso specifico è difficile da valutare. Ci sono soggetti che sappiamo sul territorio nazionale che svolgono attività puramente logistica di supporto per organizzazioni in Nord Africa o in Iraq e in Siria, facilitatori per soggetti che vogliono andare a combattere in queste zone. Abbiamo avuto però anche negli ultimi tempi casi di soggetti che con modalità abbastanza amatoriali, poco professionali, cercavano di compiere attentati in Italia. Uno va su Facebook, ne trova di ragazzi che parlano in italiano, che sono basati in Italia e che fantasticano azioni in Italia. Poi chiaro, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, insomma, jihadisti da tastiera ce n'è tanti, però la vigilanza è necessaria. Abbiamo visto quello che è successo in altri paesi europei. Mm-hmm. Insomma, minacciati, ci si sente minacciati inevitabilmente, ecco, con queste novità, con queste notizie, con come sta cambiando il mondo. Sembra di essere vecchi di un tempo, no? A dire, però questa è la situazione. È una dinamica che comunque abbiamo visto da 15 anni, per questo sono le dinamiche che abbiamo visto post 11 settembre, chiaro, evitando gli allarmismi eccessivi. È chiaro che c'è molta propaganda quando l'ISIS fa un video in cui decapita 20 copti sulle rive del Mediterraneo e fa vedere l'acqua insanguinata del Mediterraneo. È chiaro che è un messaggio all'Europa, è un messaggio all'Italia. C'è propaganda, c'è molta propaganda. Al tempo stesso parliamo di gruppi che hanno un potenziale forte e che hanno anche operativi in un modo o in un altro sul nostro territorio, comunque in giro per l'Europa. Grazie Lorenzo Vidino dagli Stati Uniti. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Devo Francesco che scrive: spiace dirlo, ma i respingimenti erano giusti, le quote vanno bene, ma gli altri devono fare retromarcia. E Clotilde dice: mi disgusta Salvini e tutta la Lega, non sono amica di questo governo, ma da qui a denunciarlo, perché appunto la Lega ha denunciato ai carabinieri il governo, dice: magari insistano sulle dimissioni dell'inutile Alfano. A proposito sempre di terrorismo, restiamo su questo tema ma su un versante diverso, perché i terroristi islamici non soltanto spargono sangue ma anche distruggono la storia artistica e culturale di quello che ritengono qualcosa, una cultura che è in contrasto con quelli che loro definiscono i loro valori, diciamo così, insomma. E ora il rischio è che l'ISIS, che è entrato, appunto i terroristi del sedicente Stato Islamico, sono entrati a Palmira, questa città che sembrava una delle più fortificate della Siria, che è anche un sito archeologico molto importante, che possano distruggere i reperti archeologici così come hanno fatto in altri luoghi, specialmente in Iraq. Ne parliamo con la professoressa Maria Teresa Grassi. Buonasera professoressa. Buonasera. Docente di archeologia delle province romane all'Università di Milano e direttrice del progetto Palmais, Palmira di missione archeologica italo-siriana. Quindi lei conosce bene, insomma, il sito archeologico. Ho letto dalle ultime agenzie che stanno cercando di portare via per quel che possono i reperti archeologici, non so quanto siano trasportabili così, insomma, e così velocemente, così d'emergenza. Che luogo è Palmira intanto, professoressa Grassi? Beh, dunque, intanto Palmira è un sito archeologico tra i più famosi del mondo, direi non soltanto per le bellezze archeologiche legate ai beni culturali, ma anche per la situazione ambientale, perché questa straordinaria oasi a metà strada tra l'Eufrate e il Mediterraneo, quindi una tappa obbligata per i commerci che legavano l'Oriente all'Occidente da sempre. Io ho lavorato a Palmira per 4 anni, dal 2007 al 2010, e poi la missione archeologica, appunto, italo-siriana si è purtroppo interrotta per lo scoppio della guerra. Adesso siamo tutti molto preoccupati, perché non solo per le distruzioni, vorrei dire, ma anche per gli eventuali saccheggi, perché una delle fonti di finanziamento del terrorismo, non dimentichiamo, è proprio la vendita di beni artistici e archeologici. Già, c'è anche questo business effettivamente, tra il modo di recuperare risorse economiche. Lei ha notizia di cosa stiano riuscendo a fare adesso coloro che vogliono preservare, salvaguardare questo patrimonio artistico archeologico? Guardi, in questo momento io non ho notizie dirette e precise. Palmira, ripeto, è abbastanza difesa naturalmente, diciamo così. È un'oasi che, se è presidiata, anche il sito archeologico riesce probabilmente a essere protetto, ma certamente è tutto molto, molto precario, perché certo non è un sito fortificato, anche il sito archeologico era completamente aperto, quindi accessibilissimo. Certamente evidentemente Palmira fa notizia in questo momento, quindi che stiano puntando su Palmira ha senz'altro anche una funzione mediatica molto, molto importante. Diciamo che in un senso distorto, ecco, purtroppo la cultura questa volta fa notizia. Professoressa Grassi, io la ringrazio, capiremo nelle prossime ore se davvero le autorità sono riuscite, e organismi internazionali spero, a fare il possibile per salvaguardare al massimo questo sito archeologico, almeno in buona parte, e poi nel caso ci riaggiorneremo con lei, allora, va bene? La ringrazio molto. Grazie a lei. Grazie. Buonasera. Buonasera. Buonasera. E quindi seguiamo un momento per momento, naturalmente se ci sono delle notizie nuove anche su questo vi aggiornerò. Vedo ancora le polemiche su di Salvini, della Lega. Non arretrerò, dice Salvini, di fronte agli imbecilli. Ah, perché è andato a Segrate e ha preso altre uova e anche della vernice da quelli che lo contestavano. Sapete che nel suo tour in Italia, tra uova e pomodori, dei centri sociali, di chi naturalmente dissente rispetto a quello che dice, c'era stata la polemica nei giorni scorsi anche sul fatto che diceva la polizia non mi protegge, ma il Ministero dell'Interno ha fatto sapere che ha messo a disposizione per proteggerlo più di 8.000 agenti. Bene, a questo punto direi che possiamo prenderci un po' di ricreazione e poi parleremo di un fenomeno sociale che sta crescendo con la crisi. Ci collegheremo con Canna, ancora capiremo la partita. Per ora 1-1 a Juventus-Lazio, la finale di Coppa, tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre insieme Roberta Giordano con voi, voi con i vostri messaggi, le vostre riflessioni, sia agli sms, che il numero è il 349-238-6666, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Abbiamo appena parlato con una docente di archeologia all'Università di Milano di quello che potrebbe combinare l'ISIS in un sito archeologico tra i più famosi del mondo, che è quello di Palmira in Siria, però ci sono varie forze che stanno in campo, che stanno cercando di salvaguardare i reperti archeologici. Poi abbiamo parlato del rischio che effettivamente dei terroristi possano arrivare sulle nostre coste e quindi in Europa attraverso i barconi. Abbiamo parlato con un esperto, ci siamo collegati con gli Stati Uniti e ha detto che effettivamente il controllo a tappeto è praticamente impossibile con le migliaia di sbarchi che arrivano ogni giorno. Su questo argomento ho visto ancora le vostre opinioni anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio Sergio dice: perché effettivamente non potrebbero, e Stefano dice: speriamo non sia il primo, veramente non so, ha una speranza Stefano, che non sia il primo arrestato, non lo so, non si capisce, un po' ambiguo il tuo messaggio Stefano. Adesso però ci spostiamo tra pochissimo su un altro argomento, ma dobbiamo aggiornare, visto che è finito il primo tempo della finale di Coppa Italia tra Lazio e Juventus, con il nostro Dario Ricci. Sì Roberta, risultato invariato rispetto al precedente collegamento, primo tempo che si è concluso sull'1-1 tra Juventus e Lazio, Lazio in vantaggio lo ricordiamo al quarto con un colpo di testa di Radu, all'11esimo il pareggio della Juventus con una bella girata sotto misura di Chiellini, poi al 32esimo Parolo di destro dal limite ha sfiorato il vantaggio per i biancocelesti, al 40esimo per la Juventus ha risposto Tevez che ha calciato però di sinistro altissimo, un buon assist fornito da Evra. Quindi finito il primo tempo sull'1-1 tra Juventus e Lazio nella finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma. Grazie Dario Ricci, a dopo. Intanto leggo questa dichiarazione di Totti a proposito del calcio femminile che è stato così dileggiato in questi giorni, non appunto perché lesbiche fosse un insulto in sé, ma perché Belloli lo ha usato proprio in senso denigratorio, per dire queste quattro sfigate a cui non piacciono neanche gli uomini secondo lui, insomma di là che sia un valore o disvalore. E dice Totti: facciamo tutti parte di una sola famiglia, quella del calcio, il gioco più bello del mondo. Francesco Totti, capitano della Roma, è il primo calciatore uomo a scendere in campo per le colleghe donne in questi giorni al centro del caso Belloli, quindi si fa avanti Totti, che insomma si distingue sempre. Adesso vi riepilogo le notizie, se non eravate in ascolto qui puntualmente dalle 21 Effetto Notte, e poi passiamo al prossimo argomento. La strage del Bardo, arrestato in Italia un marocchino accusato di aver partecipato all'attentato nel museo di Tunisi, e scoppia la polemica politica. Siria, l'ISIS occupa la città di Palmira, centinaia di civili in fuga, portati al sicuro molti reperti archeologici. Scuola, la Camera vota sì alla riforma, ora la battaglia si sposta al Senato e le sigle sindacali annunciano uno sciopero nelle prime due giornate di scrutini. Pensione, il ministro Padoan annuncia per gli anni 2012-2013 i rimborsi dal 40 al 10%. Crisi, ancora esuberi alla Whirlpool, secondo i sindacati il totale supera le 2.000 persone. Stati Uniti, quasi 6 miliardi di dollari di multa a 5 banche internazionali accusate di aver manipolato i cambi. Calcio scommesse, anche la Salernitana di Lotito coinvolta nell'inchiesta, e poi avete sentito per la Coppa Italia per ora il pareggio tra Lazio e Juventus 1-1. Ora vi volevo parlare invece del rapporto annuale dell'Istat, dal quale emerge, per quanto riguarda l'occupazione, che l'occupazione è tornata a crescere nel 2014, ma per i lavoratori tra virgolette più anziani, cioè gli over 55, con 320.000 occupati in più, mentre continua a calare, se va a sentire, per i più giovani, che vedono una contrazione di 46.000 posti. Ma tra i dati più interessanti di questo rapporto dell'Istat è quello relativo a un piccolo grande fenomeno sociale, possiamo definirlo così, e cioè quello relativo al fatto che in 2 milioni circa 2 milioni e mezzo di famiglie italiane lavora solo la donna, e la quota di famiglie in cui la donna è l'unica a essere occupata continua ad aumentare. Ne parliamo col coordinatore del rapporto annuale dell'Istat, che è Alessandro Solipaca. Buonasera Solipaca. Buonasera, buonasera. E quindi la crisi ha prodotto questo fenomeno? Sì, è vero, confermo, anche se in realtà il dato ci dice che nel 12,9% delle famiglie, ma nelle famiglie monoreddito, il percettore di reddito è la donna. E questa percentuale effettivamente dal 2008 è in aumento. Diciamo che la dinamica ci dice, soprattutto la dinamica territoriale, ci dice che questo, mentre nel nord, nel centro-nord, diciamo, non si è accompagnato a un'altrettanta diminuzione dei percettori uomini, mentre nel mezzogiorno questo aumento si è accompagnato a una sensibile diminuzione degli occupati uomini, sempre nelle famiglie monopercettori, che sono in totale intorno oltre 7 milioni. Senta, ma fra l'altro nel vostro rapporto anche si ritorna su una questione delicata, annosa, del cosiddetto gap retributivo, per esempio, tra donne e uomini, no? Cioè a parità di qualifiche, di lavoro, di titoli di studio, eccetera, le donne continuano comunque a percepire meno di stipendio. Sì, è vero, questo è vero, questo è un fenomeno che continua a valere per le donne, non ci sono cenni di modifiche. Effettivamente le donne sono svantaggiate nei livelli, e questo svantaggio non solo non diminuisce, ma aumenta se poi si considera l'anzianità, nel senso che le donne, il divario tra uomini e donne aumenta con l'aumento dell'anzianità lavorativa. E poi c'è anche, sempre sussiste il così detto da tempo tetto di cristallo, nel senso che sembra qualcosa di trasparente sulle nostre teste, ma c'è il solido che impedisce alle donne di arrivare di accedere a determinate professioni, ma anche all'interno di certe professioni di arrivare a livelli più alti, apicali. Sì, è vero, anche questo lo confermo, questo dato è chiarissimo se uno analizza l'effetto del genere all'aumentare dei livelli di reddito, cioè all'aumentare dei livelli di reddito il gap aumenta, quindi le donne a un certo punto hanno questo famoso detto non vanno oltre, mentre gli uomini crescono continuamente all'aumentare, diciamo, dei livelli retributivi. Questo è stato per fare una fotografia di un qualcosa che rimane sempre uguale a se stesso, no? Nonostante sembra che si vada avanti, che si progredisca, ma la parità di genere è ancora piuttosto lontana da venire. Io la ringrazio, Alessandro Solipaca. Grazie a lei, buona serata. Grazie, buona continuazione. Alessandra dice i messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, li leggo adesso, e il 349-238-6666. Protesto vivamente perché la pseudo notizia del barocchino Albardo è ancora tutta da verificare, già le amplificate dando adito ai peggiori rigurgiti. No Alessandra, nel senso che la Digos, i Ross hanno studiato un po', diciamo, i suoi percorsi, il suo arrivo, il suo ritorno in Tunisia, insomma qualcosa di abbastanza verificato al momento c'è. Poi è chiaro, bisogna che le indagini vada avanti, hanno già chiesto l'estradizione per quanto riguarda le autorità tunisine, che lo ritengono un terrorista a livello internazionale e lo rivolgono indietro. Infatti venerdì ci sarà un'udienza per decidere di questa estradizione. Insomma, qualcosa di fondato c'è, poi bisogna vedere se è effettivamente un terribile terrorista o no. E poi dice un altro ascoltatore: il rischio terroristi imbarcati, la cura del governo è come quella di un medico che cerca di curare un melanoma con del fondotinta, le cause vanno curate e non i sintomi, ma il buon senso sembra aver preso il via per Marte. Beh, invece noi prendiamo il via per le strade, così aggiorniamo chi sta viaggiando, poi ricordatevi, è qui tra poco. Effetto Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ora ve le ricordo molto velocemente le notizie in primo piano di oggi, perché poi dobbiamo collegarci con Cannes, abbiamo lo spazio europeo, ancora dobbiamo capire come procede la finale di Coppa Italia e poi se c'è tempo per i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ma lì potete andarci quando volete comunque, ricordatevi, e poi i messaggi, sms al 349-238-6666. Le notizie sono queste: arrestato per la strage del bardo un marocchino in Italia, in provincia di Milano, a Gaggiano, di 22 anni, sarebbe arrivato nel nostro paese con un barcone ed è scoppiata per questo la polemica politica con la Lega che denuncia ai carabinieri il governo Renzi. Poi sia la riforma della scuola, la Camera ha detto di sì, ora la battaglia si sposta al Senato e la ministra Boschi assicura la sinistra Dem che lì si affronteranno i punti più discussi. Calcio scommesse, Renzi disgustato, Mattarella dice è una cosa che ci fa indignare, ci vuole più severità. Intanto spunta nell'inchiesta anche la Salernitana di Lotito. L'ISIS nel centro di Palmira, ne abbiamo parlato con un'archeologa, vicini alle rovine archeologiche, molti civili in fuga dalla città, evacuato l'ospedale, si cerca anche appunto di mettere in salvo centinaia di reperti archeologici. L'Istat, ce ne siamo appena occupati, più lavoro ma per le persone over 55, per le donne resta sempre il tetto di cristallo, la differenza di retribuzione e poi questo fenomeno, 2,5 milioni di famiglie vivono col reddito percepito esclusivamente dalle donne. E poi Expo, polemica tra McDonald's e Petrini, McDonald's accusa Petrini di slow food, di retorica terzomondista, Sorrentino divide Cannes, ci sono stati molti applausi, anche qualche fischio e tra poco di questo ci occuperemo. Europa 24 notte. Europa è inquinamento, l'Europa inquina sempre meno. Per fortuna tutto questo mentre l'economia torna a crescere. Il PIL del vecchio continente aumenta infatti nel 2014, ma le emissioni di CO2 degli impianti industriali, secondo i dati della Commissione europea, calano del 4,5%. Secondo gli ambientalisti è un buon risultato, ma anche uno stimolo a fare di più. Alessandra Schepisi ne ha parlato con Monica Frassoni, che è presidente del Partito Verde Europeo. Mi sembra che questa sia sicuramente una buona notizia, la conferma che non esiste una reale contraddittorietà fra la crescita economica possibile, soprattutto se virtuosa e fondata su alcuni settori d'avanguardia e poco inquinanti come le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, eccetera. Però mi sembra anche la prova che si può e si deve non solo fare di più. Vorrò semplicemente ricordare che il protocollo di Kyoto aveva fissato degli obiettivi di riduzione del 6,5% quando invece noi siamo di fronte ad una situazione nella quale gli organismi internazionali, l'ONU eccetera, ci dicono che dobbiamo entro il 2050 ridurre dell'80% le nostre emissioni. Quindi diciamo che va bene, dimostra che lo possiamo fare senza diminuire la crescita, ma dobbiamo fare molto di più ed è urgentissimo farlo, quindi mi sembra che è una spinta a continuare sulla buona strada. Quali potrebbero essere i target più ambiziosi dunque? Ma i target più ambiziosi sono prima di tutto quelli che già sono stati fissati dall'Unione Europea con la contrarietà di Confindustria italiana e di molte imprese europee. Questo è un tema da sottolineare, che è la riduzione del 40% delle emissioni entro il 2030. Noi consideriamo che per essere coerenti con quello che le Nazioni Unite ci chiedono dovremmo ridurre del 55% e che molte delle esitazioni che oggi esistono sono determinate dal fatto che sostanzialmente non si vuole cambiare. Vorrei ricordare che una decina di anni fa non si sarebbe mai pensato che le energie rinnovabili sarebbero un giorno riuscite a coprire il 60% del nostro fabbisogno elettrico, come succede in qualche momento della giornata. L'accordo raggiunto a maggio tra le istituzioni europee sull'avvio dal 2019 di un nuovo meccanismo del mercato europeo delle emissioni, secondo lei in che direzione va? Va nella buona direzione, ma è ancora molto esitante. Io vorrei ricordare che il grosso problema di questo sistema, che è sostanzialmente un sistema di scambio di emissioni, nel senso io posso emettere, però devo comprare il diritto di farlo oppure vendo ad altri il diritto di farlo. Ma credo che il punto fondamentale, il messaggio fondamentale che questo risultato oggi ci dà è che in realtà è possibile accelerare, accelerando anche una crescita economica virtuosa e sostenibile, e che non farlo significa andare talmente lenti che gli effetti più negativi dei cambiamenti climatici, compreso nei nostri paesi, non potranno che farsi sentire ed essere molto più costosi. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Grazie dottor Stefano Mazzola sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Continua così perché va sempre bene ascoltare Effetto Notte. Adesso però ci colleghiamo con Cannes. Awesome. Ho perso i migliori anni della mia vita. Tu hai detto che le emozioni sono sopravvalutate, ma è una vera stronzata. Le emozioni sono tutto quello che abbiamo. Questo è un breve passaggio del film di Sorrentino, già Oscar, premio Oscar, e poi oggi ha presentato a Cannes il suo film Youth, la giovinezza, che ha ricevuto molti molti applausi, anche qualche fischio, insomma ha un po' diviso. Ne parliamo con Boris Sollazzo, critico cinematografico del giornalettismo.com, che saluto. Ciao Boris, che è lì a Cannes. Buonasera a tutti. 17 minuti di applausi il pubblico. Niente poco di meno, sono spallate le mani. Sì, i giornalisti si sono un po' divisi, anche se devo dire che gli applausi sono stati molto più dei fischi anche tra i giornalisti che comunque erano sparuti, diciamo, quelli che mostravano il dissenso. Invece il pubblico ha tributato un'ovazione forse anche superiore a quella tributata a Nanni Moretti, che fino adesso insieme al film della Pixar era quello che aveva più scaldato il pubblico, quindi veramente un trionfo per Paolo Sorrentino. Tu hai battuto o hai fischiato? Hai battuto le mani? Ho battuto le mani, ho amato moltissimo il film, io avevo qualche riserva sulla grande bellezza, ho l'impressione che questa sia una nuova opera prima, nel senso che la grande bellezza era un capolavoro, nel senso che era un lavoro che metteva un punto e a capo nella carriera di Paolo Sorrentino. Lui oggi l'ha detto in un'intervista che tra l'altro sentiremo nella Rosa Purpurea del Cairo sabato, sì. Ha detto proprio, in fondo molti dei miei film precedenti erano stati preparatori alla grande bellezza, e qui ha voluto ricominciare. La giovinezza probabilmente non è quella che rimpiangono Harvey Keitel e Michael Caine, ma è la seconda giovinezza che ancora giovane Sorrentino vive nel suo cinema, cioè la volontà di rinnovarsi, di trovare anche un entusiasmo nuovo. C'è un Sorrentino più puro, più ingenuo, più divertito, più tenero, molto commovente anche nel suo tributo a Diego Armando Maradona, apparentemente caricaturale nel fisico di questo Rodi Serrano, che è monumentale, ma leggero, un pelino all'interno di un corpo d'elefante, e forse è tutto fondato su questo, Iauf, il senso di incompiutezza, di incompletezza, il desiderio spesso mai realizzato, che raccontano questi personaggi. Boldano, che è un attore hollywoodiano molto famoso che vorrebbe essere apprezzato per il suo talento, Michael Caine, che è un direttore di musica classica, un direttore d'orchestra di musica classica moderna, e che non suona più, si è ritirato perché per via di ciò che è successo alla moglie. Harvey Keitel, che è un regista che non si rassegna a 80 anni a smettere di fare film e che vuole fare il suo testamento morale e il suo testamento artistico. Sono tutti personaggi che hanno qualcosa che manca nonostante abbiano avuto tanto, e forse c'è anche la metafora di un Paolo Sorrentino che non è ancora soddisfatto nonostante l'Oscar. Posso dire una cosa, Boris Sollazzo? Si tappino le orecchie i deboli di cuore e gli amanti, gli estimatori di Garrone. A me invece il film di Garrone, anche se un ascoltatore su Facebook ha fatto una bellissima recensione con tanta poesia, proprio mi ha delusa. Io l'ho trovato pretenzioso e poi alla fine abbastanza banale. dato un bestemmio? Ma guarda, sono due film completamente diversi. Secondo me questi due registi hanno una vita stranissima. Gli capita spesso di incrociare le spade proprio qui a Cannes, no? Era già successo con Comorra e il Divo. E Garrone ha uno stile che a volte è quasi documentaristico, freddo, è un maestro nel senso che sa rendere l'immaginazione, soprattutto quella altrui, in maniera straordinaria. Però secondo me vuole fare un po' l'americano, tu vuoi fare l'americano con contaminazioni pasoliniane, così mi è sembrato, ma io sono proprio una profana, caro Boris Sollazzo. Tu consigli l'uno o l'altro di andare a vedere? Uno solo ne puoi consigliare. Sì, è un'analisi molto interessante, io l'ho anche scritto proprio sul giornalettismo, l'ho detto, è un film perfetto, stilisticamente ed esteticamente perfetto, che ti lascia freddo, che ti lascia due passi indietro. Paolo Sorrentino invece crea quel tipo di finzione con il singolo spettatore, per cui hai l'impressione che lui parli un alfabeto che puoi capire solo tu. Per cui t'ha convinto. Boris, ci dobbiamo lasciare, ti ringrazio, salutaci Cannes, ci sentiamo tra poco.